inopportuno incontro. Armina, oh Dio! Forti e riveggo, non volendo ancora, torni a chi fuggì, a chi non vieni, avanti qui giungi, oppur nemico. Arresta i colpi, non soffro oltraggio d'onore.